as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, qui siamo a Radio Città Fucico, ad Il Pane Rose. Oggi puntata non speciale ma specialissima, perché una puntata in cui abbiamo un ospite che mi ha aiutato in questa intervista. Stiamo parlando di Alessandra Testa, giornalista del Corriere di Bologna. Con lei più volte abbiamo lavorato per quanto riguarda questioni sul lavoro, abbiamo affrontato argomenti in varie situazioni, soprattutto durante la vertenza del Covid, ma non solo. Gli ho chiesto di fare una puntata speciale sul salario minimo. Abbiamo fatto delle interviste insieme, qui ve le proponiamo. Adesso lei farà un'introduzione sul salario minimo, sulla legge che forse verrà fuori in Italia, su quello che l'Europa ha chiesto. È molto esperta, se ne sta occupando da tanto, per questo che io gli ho chiesto di partecipare, lei ha accettato. È venuta una bella puntata con tante cose interessanti. Adesso ascoltiamo Alessandra Testa, poi sentiamo le interviste di alcuni lavoratori del facchinaggio, dei servizi, delle pulizie, delle mense, e poi una breve conclusione. Ci sentiamo alla fine. All'inizio di giugno l'Unione Europea ha regalato una speranza, almeno sul piano teorico, a tutti i lavoratori cosiddetti poveri. Ha approvato cioè una direttiva, purtroppo non vincolante, sull'istituzione del salario minimo all'interno dei suoi stati membri. Qual è la situazione euro in Europa? Su 27 stati membri dell'Unione, 21 hanno già una legge che prevede un salario sotto il quale non si può scendere. Hanno cioè un salario minimo che garantisce uno stipendio di almeno circa 1000 euro, per esempio la Francia, la Spagna, la Slovenia, il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo, dove addirittura il minimo tabellare arriva a garantire 2000 euro al mese. E poi c'è la Germania, che ha appena scelto di portare a 12 euro il salario minimo legale, che oggi è fissato a 9,82 euro, e in che quel paese esiste da lontano 2015. E in Italia? In Italia se ne parla almeno dal 2014 e il salario minimo non è un pallino solo del Movimento 5 Stelle. Lo aveva addirittura proposto Renzi, e anche al PD, che ora vuole lanciare una scialuppa di salvataggio ai più fragili, l'idea non dispiace affatto. Il ministro al lavoro e alle politiche sociali, Andrea Orlando, ha finalmente usato la definizione di lavoro povero e ha annunciato che il salario minimo deve essere combinato con la contrattazione. Martedì, e cioè oggi, ha annunciato Orlando, la nostra proposta sul salario minimo sarà sul tavolo con le parti sociali, che daranno poi la loro valutazione. Tre i pilastri della proposta che i sindacati, che sul tema non sono affatto concordi, dovranno visionare: salario minimo, aumento delle retribuzioni e taglio delle tasse attraverso il cuneo fiscale. La proposta di cui si discute in Italia prevede una cifra intorno ai 9-10 euro all'ora, che porterebbe ad avere salari di circa 1000 euro al mese. Non certo una fortuna, ma sicuramente un miglioramento per i tanti invisibili che sfuggono alla narrazione dei nostri contratti sono ben superiori al salario minimo, come dice il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, o ai minimi contrattuali definiti dai tanti, forse troppi, contratti nazionali di categoria firmati dai maggiori sindacati italiani. Secondo le stime, nel nostro paese sono circa 4 milioni, 4 milioni e 6, i lavoratori che percepiscono meno di 9 euro all'ora. Si tratta del 30% del totale degli occupati. Il lavoro povero dunque esiste e interessa soprattutto gli addetti e le addette della logistica, della vigilanza privata, dell'agricoltura, della ristorazione, del commercio, del turismo e dei servizi di cura. Abbiamo parlato con alcuni di questi lavoratori, poveri anche se lavorano tanto. Alcuni hanno preferito non parlare, altri abbiamo provato a proteggerli non rendendo riconoscibili le aziende per cui operano, perché oltre a sentirsi poveri, si sentono pure ricattabili. E ciò succede anche nella grassa Bologna, che si fregia di essere la città più progressista d'Italia. Tutti però su una cosa concordano. Ai sindacati, soprattutto quelli che temono che il salario minimo indebolirebbe la contrattazione, chiedono una sola cosa: di essere visti e di provare a compiere questo piccolo passo che a chi ha già un buon contratto non toglierebbe niente, ma a chi non ce l'ha darebbe molto ossigeno. Tra l'altro, il beneficio sarebbe per l'intera comunità, perché forse siamo un po' ottimisti, ma il salario minimo potrebbe aiutare, chissà, a chiudere in un cassetto per sempre anche i cosiddetti contratti pirata e il lavoro nero, facendo bene anche, non ce lo dimentichiamo, alle casse dello Stato. Ecco le voci dei ragazzi e delle ragazze con cui abbiamo parlato. Noi siamo i poveri, siamo i pezzenti, la sporca plebe di quest'età, la schiera innumere dei sofferenti, per cui la vita gioie non ha, nel crudo inverno la nostra prole, per lunga inedia languir vediamo, solo per i ricchi risplende il sole, mentre si esulta noi fame abbiamo. Urna tua a tutti uguali, die diritti sulla terra, noi facciamo aspra guerra ai ladroni, agli oppressori. Non sia pace fra i mortali, finché un uomo sovraltro imperi, i nemici a noi più fieri sono i nostri sfruttatori. I nemici a noi più fieri sono i nostri sfruttatori. Per esempio, come ti chiami, quanti anni hai e da quanti, e che lavoro fai? Giuseppe. E quanti anni hai? A 60. Hai una famiglia, figli? No, sono single. Okay. E che lavoro fai esattamente? Beh, qui sono facchino, diciamo. Fai il facchino, quindi sei in appalto. Dice quinta categoria, ma... E quanto guadagni al mese? Contano. Adesso prendiamo 1.400. 1.400. Sì. Per quante ore al giorno? No, le ore aspetta, mi sembra... 8 ore. Sì, 8 ore, ma prima erano 176. Al mese? Sì. 176 al mese? Ora? Sì, sì. Prima erano 170. E che ora quante sono? Adesso 160 ore. Ok, quindi più o meno la paga oraria prima quant'è? Se non superavi le 176 ore, non avevi fatto straordinario, okay. Risultava nell'orario. Quindi normale. Entro le 176 ore non esistevano straordinari. Esatto, prima era così. E quindi di fatto quanto guadagni all'ora più o meno? Adesso è 9 euro all'ora, no? Quindi secondo te una legge che prevedesse 10 euro. 10 euro all'ora potrebbe essere giusta, visto che comunque ci sono anche lavoratori che guadagnano 4 euro all'ora? Diciamo queste sono paghe di categoria, sì. Diciamo vanno a categoria. Contrattuali. Nella stessa categoria c'è chi lavora molto di più e chi lavora molto di meno, questo è il problema. E il guadagno quando si parte nella tua categoria? E invece il guadagno è uguale. Sì, ma tu quando, un facchino, quando entra nella tua cooperativa, quando guadagna? Tu ormai sono tanti anni che lavori, perciò prendi 9 euro. Quando si inizia, quando guadagna? Il salario d'entrata quant'è? Beh, adesso non te lo so dire gli ultimi, eh. Più o meno. Quando tu hai iniziato, quant'era? Non li ho mica visti, Quando tu hai iniziato, 10 anni fa, quant'era? Era 7 euro. 7 euro, dunque sarà più o meno 7-8 euro. Voi siete anche tra i lavori poveri, però i più fortunati, perché avete un sindacato in azienda che è contratta. Sì, anzi, a quel tempo lì, qua c'erano molti marocchini in questa ditta. Sì. A quel tempo lì il sindacato non c'era neanche. Adesso c'è. Questi dall'estero qua lavoravano... Ah, noi lavoriamo anche il sabato e la domenica, addirittura. Perché loro non avevano un confronto, sì. No? Adesso invece c'è il sindacato e fa rispettare i contratti. Poi qualcosa c'è ancora oggi. Sarà. E quindi secondo te esiste nel facchinaggio il cosiddetto lavoro povero? Adesso non lo fanno per il lavoro, prima forse era per il lavoro povero, per saltarci fuori, adesso lo fanno perché gli appartamenti costano un mensile, allora si vengono incontro, cioè fra di loro... Però secondo te il salario è ancora basso per dei facchini rispetto ad altri lavori? Cioè è un lavoro di fatica, è un lavoro usurante, fate tante ore, secondo te guadagni il giusto o dovresti guadagnare di più? Ma io parlo per me personalmente, dovrei guadagnare di più, perché certo. Io tiro un po' la corda, a dire la verità. Quelle poi vedono e che... non hai figli, non hai una famiglia, sei solo. C'è anche quello lì. Ti mettono lì proprio perché sei civetto di mano. Cioè... Quindi c'è il tuo stipendio di 1.400, da quanti anni è che lavori? 10 anni, poco più di 10 anni. E secondo te il sindacato cosa dovrebbe fare? Perché il sindacato è un po' titubante sul salario minimo, ha paura che col salario minimo si venga a perdere il valore della contrattazione, perché chi ha il contratto nazionale guadagna molto di più dei 10 euro. Ma nel suo caso no però. Nel suo caso no. Perché il lavoro di facchinaggio non è così. Secondo te è giusto il salario minimo? È un punto di partenza? Il salario minimo è giusto perché, diciamo... Sì, altrimenti se ne approfittano. Ecco, altrimenti cioè, pagherebbero meno. Bisognerebbe uscire fuori dalla concorrenza. Ok. Perché se c'è il lavoro nero, alla fine anche le ditte normali cercano delle scappatoie. Tu stai dicendo che il salario minimo eviterebbe che alcune ditte pagano meno di quello che è previsto dal contratto. Praticamente le ditte sono disposte anche ad andare, diciamo, contro certe cose sindacali, no? Dice, okay. Ma intanto se andiamo a sbattere ci paghiamo un avvocato e ci saltiamo fuori, ci costa sempre di meno. Ecco, questo è interessante, dunque il salario minimo eviterebbe questo. Cioè già è successa questa cosa qui, Certo, non rispettano i contratti. Una volta io mi sono accorto che la mia busta c'era qualcosa che non andava, ho fatto adesso vado al sindacato, mi ha chiamato dalla macchina, no, senti, ascolta, adesso non ti pago da parte, non andavo al sindacato. Non mi vengono neanche più a controllare, no? Per dire, hai capito, uno che lavora, se ne accorgono quando succede il guaio, però non te lo riconoscono, questo è il fatto. Quindi non fai delle cose che non ti riconoscono. Lo dicono per legge, per contratto sindacale, le paghe sono queste, basta. Cioè, e questo potrebbe essere il rischio del salario minimo. Va bene, dai. Ti ringraziamo. Ti ringraziamo e comunque tu sei favorevole al salario minimo. Sei favorevole a 10 euro di salario minimo. Come punto di partenza per aumentarlo, chiaramente. Ok, ti però ringrazio. Favorevole però al punto che se citare poi. Deve essere riconosciuto comunque la professionalità che aumenta negli anni. La professionalità, la buona volontà. Ok, va bene. Grazie mille. Ciao. Tempo fai questo lavoro ed esattamente cos'è? Il tuo lavoro è di portineria, di vigilanza? Sì, cioè sarebbe vigilanza non armata per adesso, quindi all'inizio c'è stato un po' di tirocinio come si sa, e la paga minima era di 4 euro l'ora, poi pian piano nel tempo qualche scatto, ogni 2 anni più o meno c'è uno scatto, non è un granché orario, e adesso arrivo a prendere 5 euro e qualcosina l'ora, 5 euro e 20 mi sembra. E quante ore fai al giorno? Allora tecnicamente sarebbero 10. In questa postazione qua, a volte in altre postazioni richiedevo di andare anche 11 euro al giorno, per un totale di 230-240 euro al mese. Spesso e volentieri. Quando è che scatta lo straordinario? Lo straordinario scatta nelle ore notturne, dalle 10 fino alle 6 di mattina, oppure scatta quella domenica, quando fai la domenica, in certi posti, tipo non so, il Paleotti, che è un incentivo orario, non ho mai capito perché, però c'è un piccolo incentivo orario. Quindi se tu fai dalle 8 alle 18, 10 ore, non ci sono neanche 2 ore di straordinario? Non c'è lavoro? Cioè lì tutto, non è solo specifico, io guardo... No, perché di solito dopo l'ottava ora... scatta lo straordinario, correggimi se sbaglio. Sì, ma allora è diverso, sono sì, contratti particolari. È un po' particolare la faccenda qua. Tu c'hai il contratto multiservizi. Sì. Io penso che sia oggi in Italia il contratto che ha la paga minima più bassa, perché tu sei in regola, te ti applica il contratto nazionale, quello firmato dai sindacati. Assolutamente sì. E quindi in conclusione al mese quanto guadagni? Allora, guardi, io facendo proprio adesso, dopo 4 anni, 5 anni che sono qua, adesso facendo sempre quelle 220, 200, arrivo a prendere 1150, a volte perché magari fai una straordinaria, uno spostamento, arrivi a 200 ore di lavoro. Arrivi a 1180, 1200, ma 1200 mai visti. E quindi su quante volte ti capita di lavorare di notte o in orari? No, di notte adesso ultimamente poco, all'inizio sì, all'inizio molto, ma adesso poco. Hanno un po', così dice, hanno un po' sistemato le pedine, un po' al punto giusto e tutto lì insomma. E quindi con meno di 1200 euro al mese come vivi? Ti senti un lavoratore povero o un lavoratore... No, guardi, io lo dico sinceramente, io ho finito adesso questo turno qua, stamattina sono andato a montare un barbecue in una villa. Le altre mattine vado a fare altri lavori, cioè con questo qui non vado avanti. Quello che rimane è un po' come te, anche altri, vero? Sì, sì. E quindi fai gli ciappini? Sì, ciappinare. Il resto che rimane lo divido con quella povera signora che mi aspetta a casa e un po' lo dormo, perché poi non è che rimane tanto. Quindi devo per forza eseguire lavori extra, diciamo così, perché sennò non vai avanti. E come te, tutti quanti, molti dei colleghi fanno così, so questo io. Sì, c'è quasi qualcuno, tutti fate il secondo sì, lavoro. Qualcuno lo fa. Non ho mai sentito molti, però qualcuno lo fa, insomma, non è sì. Che... Non è tu che tu sei d'accordo al salario minimo di 10 euro? Cioè, che non sarebbe tu sei proprio la categoria dei multiservizi, quella certo, che è più colpita, certo, perché ti si raddoppierebbe lo stipendio. Sì, poi non avrei neanche più bisogno di fare ciappini, non avrei più bisogno di andare a fare cose strane, insomma. Se ne parlava all'inizio, ma poi è andata morta lì, adesso ne parlavano lì alla Comunità Europea, sì. Hanno detto sì, ma non è ancora obbligatorio, non è ancora... Certo. Magari Dio andasse, non è obbligatorio. Magari Dio andasse in porto, chi è che non sarebbe contento? Quindi, insomma, e quindi adesso come vivi? Rinunci a qualcosa? Ci sono cose che non puoi fare? Ma guardi, all'inizio sì, perché io prima lavoravo in una ditta grossa di Bologna che la politica era una ditta grossa, hanno fatto chiudere la politica e ho dovuto fare un inciampo nella vita. Però, adesso vivo abbastanza bene, ecco, dopo un po' di travaglio. Però adesso, come dicevo prima, con i ciappini circa un po' un calcio al cerchio, un calcio alla botte, si riesce un po' ad alzare un po' la storia. Quanti anni hai tu, hai detto? Io ne ho quasi 60. Sei il secondo che intervistiamo che c'è una certa età. Cioè, la mia qualifica mi permetterebbe di andare a lavorare lì. Perché ne ho parecchie, però la mia età che va lì, cioè... Gigantieri, non è ormai, più caso. Ormai, come si dice, gratto quei 2-3 contributi qua, è buona. Cioè... Sì, alla fine. Però per i giovani questo è un problema, io ho visto anche dei giovani che fanno il tuo lavoro. I giovani io consiglio di non rimanere qua, cioè se è un usarlo come posto transitorio, perché qua un giovane non ha una gran prospettiva di vita, di famiglia, non ce l'ha, non riesci ad andare avanti. Guadagni molto molto poco. Voi non avete un RSU, un sindacato all'interno della tua ditta, dei delegati sindacati? Sindacati interni no, non ne ho sentito parlare mai. Questo è uno dei problemi, no? È una cosa comune. I facchini ce l'hanno e sono riusciti piano piano ad arrivare a 8-9 euro. Allora, forse il vostro, essendo un lavoro molto individuale, non riuscite neanche a fare gruppo tra colleghi. Ma guarda, diciamola che io la vedo più che loro partono già premuniti, cioè vedo che così punto e basta, o prendo o lasciare. È inutile star lì, c'è stato qualche volta che se ti lamenti ma poi arrivano e stanno zitti. Cioè, è così, la vita è così, c'è poco da fare. Sì, perché quando un contratto nazionale parte da così basso... Ah no, certo. Insomma, è inutile... Ah no, beh, lui sicuramente è una delle categorie che più beneficerebbe del salario minimo. Sì, sì. Ma secondo te cos'è che la politica non capisce quando parla di salario minimo? Cioè, io so che la politica è normale, perché da che mondo è mondo io guardo il risultato, non guardo mai le chiacchiere. La politica si basa su tante chiacchiere, tante promesse che poi alla fine vanno a sciamare nel dimenticatoio. L'italiano è una persona che non ha molta memoria e purtroppo la politica vede che l'italiano deve stare lì, punto e basta, non deve andare su, non deve aumentare. Quindi però purtroppo è che basta guardare fuori com'è la vita, cioè attaccano problematiche, la benzina aumenta, tutto questo aumenta, tutto questo, la busta paga sempre quella. Ti diamo l'incentivo, ti diamo, anziché dare l'incentivo, ma ti devi vedere le tasse, scusa. Fai meglio così, cioè anziché tirare fuori i soldi che poi alla fine ci andiamo a imbegare, secondo me. Magari, però insomma, sul caso. Quindi, di... insomma, tu in questi 4 anni non ti è mai aumentato lo stipendio? No, è aumentato. Di un po'. Cioè, ma. 50 centesimi? cioè. esattamente come i prezzi. Sì, uguale, che quando vai a far spesa ti viene... Una sincope. Ecco, che quando a volte vado al ristorante, ecco, però non è il conto, è la mia busta paga quella, per dire scherzando, insomma. Però insomma, inutile, speriamo in Dio. Speriamo che passi questo salario minimo, per te sicuramente. Grazie mille. Grazie mille. Niente, grazie a voi. Ciao. Allora, siamo qui con una lavoratrice delle pulizie, lavora in una ditta di appalti, contratto multiservizi. Adesso le chiederemo, insomma, signora, lei si chiama Rosa e vogliamo sapere quanto guadagna allora. Allora, la mia tariffa oraria è di 7,29 euro all'ora. E, diciamo, da voi è tutto rispettato, il contratto nazionale, viene rispettato tutto? Sì, viene rispettato tutto, sì. Quindi proprio il vostro contratto che prevede che lei guadagni 7 euro? Sì, sì, penso che sia... E quando uno entra nell'azienda dove lavora, guadagna 7 euro, da che salario si parte? No, si parte da molto meno, da un euro in meno inizialmente. Dunque, lei diceva, in questi anni è aumentato di un euro la sua paga oraria. Sì, in quanti anni? Ma ci passeranno circa 3-4 anni prima. Ok, dunque diciamo uno quando entra in un'azienda, diciamo, delle pulizie come la vostra, fa le pulizie nelle grandi industrie, inizia con 6 euro, sì. Poi dopo 4-5 anni arriva a 7. Sì. Fine dove può arrivare, per in base ai vostri livelli? Quando si arriva più o meno? Dopo uno che lavora dopo 10 anni, 15 anni? A quanto... Ma secondo me non sale di molto, perché si avvalgono delle CNEL, quindi le tariffe sono queste. Questo è il contratto nazionale, dunque stiamo parlando di contratti nazionali firmati dai sindacati. Sì. Ecco. Un'altra cosa le volevo chiedere, noi stiamo discutendo sul salario minimo, in Italia si parla di salario minimo, si parla di 10 euro, voi come lavoratori dei multiservizi sarete d'accordo? Certo, anche perché il nostro è un lavoro che è molto pesante, per cui bisognerebbe remunerarlo un po' meglio. Certo, diciamo che praticamente voi quando arrivate a prendere a fine mese, quante ore fate, quando guadagnate alla fine uno stipendio? Allora, io ho un contratto di 5 ore al giorno, per cui 25 ore settimanali vado a prendere di netto sui 700 euro. Ecco, oggi con 700 euro non si campa? No, anche perché essendo un lavoro part time... Lo stipendi è quello. Lei è costretta a fare un altro lavoro? No, io no, perché ho una famiglia numerosa, però ci sono colleghe che fanno due part time. Ah, per forza. Che alla fine questa è la situazione di chi guadagna un salario minimo molto molto basso. Esatto. È la situazione di molti di voi. Esatto. Ma io la ringrazio, signora Rosa. Prego. E speriamo di ottenere questo salario minimo. Magari. Allora, abbiamo qua Monia, è una lavoratrice... che lavora una grossa azienda di ristorazione del bolognese, molto importante. Affronteremo anche con lei la questione del salario minimo. Allora, quanto guadagni Monia tu allora adesso? Adesso 9,55 euro, però sono 20 anni che lavoro in questa azienda. E sei un sesto super, sei sopra al gradino più basso? Sì, c'è il sesto, io sono un sesto super, poi c'è il quinto e poi... E dopo 20 anni sei arrivata a 9,55. Sì. Dunque sei sotto la soglia di salario minimo che vorrebbero introdurre, sai che vogliono introdurre a 10 euro. Ah, non lo sapevo. Se questo è, sì, in Italia si sta discutendo su questo e noi stiamo proprio intervistando le persone come te che teoricamente sono sotto il livello del salario minimo, 10 euro. Calcola che nelle aziende metalmeccaniche bolognesi la media è dei 12-13 euro. L'azienda dove tu lavori oggi, dove servi il caffè, dove fai da mangiare, la media un interinale sta sopra i 12-13 euro. E dopo 20 anni tu sei a 9,55. Sono molto bassa. Ecco. Tu chiaramente saresti d'accordo per un salario minimo. Chiaramente. Sì. Chiaramente. Perché insomma dopo 20 anni sei sotto il livello. Una cosa ti volevo chiedere. Tu praticamente quante ore fai? Io sono un 3 ore. Dunque fai un part time? Sì, un po' meno. Dunque praticamente... Ma sei tu che hai scelto oppure loro che ti hanno fatto questo? No, ho scelto io perché prima ero un 4 ore, poi con la famiglia, gli impegni, ho chiesto la riduzione io. Ma un 4 ore, insomma, praticamente lo stipendio è veramente basso. Sì, è bassissimo. I ragazzi che entrano adesso guadagnano pochissimo. Quanto guadagno? Di preciso non lo so, perché io sono vecchia di 20 anni. però loro si lamentano molto. Sì, avranno un salario che partirà dai 7-8 euro, non di più. Ah sì. E dunque, ma molti di loro fanno anche un secondo lavoro? Sì, sì, sì, quasi tutti. E dunque tutti. Questo è il problema. Invece col salario minimo, una delle ragioni eviterebbe che molti. Certo. Tu però c'hai la famiglia da mantenere, nel senso che c'hai i figli e questo dunque... Però vorresti, cioè chiaramente tu ti lamenti, perché dopo 20 anni ancora sei sto super. Sì, mi lamento, perché vorrei, cioè è un mio diritto avere il livello. E dunque anche un aumento salariale consistente, perché veramente dopo 20 anni 9,55 euro, poi io ti conosco, sei anche molto brava come lavoratrice. Grazie. E devo dire che io sapevo che eri sotto il livello, però 20 anni sono davvero tanti. Tu speri che insomma venga, che esca questa legge, così che anche il vostro lavoro si potesse partire a 10 euro e dunque aumentare. Sì, soprattutto anche per i giovani che iniziano adesso. Infatti una cosa ti volevo chiedere, ma voi avete il contratto nazionale, si applica sì, a voi? Sì. E avete anche il sindacato all'interno? L'RSU dei delegati? Sì, so che ci sono, io non sono molto interessato. Perché voi, la vostra è una grande azienda, dunque voi siete sindacalizzati, avete l'RSU e avete un contratto interno? Non fate il secondo livello di contrattazione? C'è un contratto interno, non ce l'avete? Questo è anche uno dei problemi, perché voi avete solo il contratto, avete solo i soldi del contratto nazionale. Pure siete una grande azienda. Va bene, ti ringrazio. Speriamo di riuscire in questa, che lo Stato finalmente vi aumenti i salari, perché ne avete bisogno anche voi come tutti quanti noi. Grazie mille. Ciao. Triste spettacolo, le nostre donne per noi primizie non han d'amor, ancora in puberi sciolte le gonne, si danno in braccio di lor signor, son nostre figlie le prostitute che muoion tisiche negli ospedal, le disgraziate si son vendute per una cena, per un grembiale, pur natura tutti uguali, piedi ritti sulla terra, noi facciamo aspra guerra ai ladroni, agli oppressori. Non sia pace fra i mortali, finché un uomo sovraltro imperi, i nemici a noi più fieri sono i nostri sfruttatori. I nemici a noi più fieri sono i nostri sfruttatori. Abbiamo ascoltato i nostri lavoratori, da queste interviste vengono fuori alcune questioni importanti. Il salario minimo è un'esigenza che ha molte categorie, soprattutto quelle che noi consideriamo lavoro povero, ne ha parlato anche Alessandra Testa, ne hanno veramente bisogno. Però è venuto fuori anche un'altra questione, che anche nelle categorie dove c'è il lavoro povero, dove c'è il sindacato che lotta, che fa conflitto, ad esempio come nel facchinaggio, si riesce anche ad andare oltre. Il salario minimo certamente sarebbe importante, ma sicuramente la lotta può sostituire una legge. Insomma, lottare e chiedere aumenti di stipendio saranno sempre le cose da fare, anche perché ci sono tante questioni che non vengono esaurite con il salario minimo, l'avete sentito dalle interviste. Avere un RSU all'interno del proprio posto di lavoro è importante per aumentare i salari, per aumentare i diritti. Queste interviste ci fanno capire questo. Dunque il salario minimo è una necessità, è una base di partenza, ma bisogna continuare a lottare, organizzarsi sindacalmente, organizzarsi con RSU all'interno delle fabbriche, avere un sindacato combattivo e conflittuale per poter aumentare i diritti e il salario, a prescindere da che salario minimo si parte. Insomma. Ne approfitto anche per ringraziare Alessandra Testa per la collaborazione in questa puntata. Speriamo che tornerà di nuovo al Pane delle Rose e farà altre puntate con noi. La sua collaborazione è importantissima. Io la ringrazio da parte di tutti gli ascoltatori del Pane delle Rose. Speriamo, ripeto, che questa collaborazione continui per poter fare delle puntate interessanti come questa in cui affrontare argomenti che interessano tutti noi lavoratori. Ciao! Orgoglioso de estar. Orgoglioso.